caso un giorno, in cielo, non dovessi volare come gli uccelli o piuttosto in mare, come i pesci nuotare. Se per caso un giorno in terra non dovessi passeggiare come i gatti, o piuttosto le vecchie strade camminare. Se per caso un giorno bianco non dovessi più nemmeno respirare, o piuttosto morto, nemmeno osare. Se per caso un giorno fate della mia pelle, senza carezze invece di niente, piuttosto una lampada.